di finire tra le dune di un deserto che l'asciugherà. Non puoi chiedere ad un uomo di svanire come un tuono perso nelle sue profondità. Se devo andarmene, lasciarti libera, meglio riflettere quanto mi costerà. Ma che te lo dico a fare, a rincorrere chimere, perdi il gusto di volare. Ma che te lo dico a fare, e non bastano scogliere a fermare l'impeto del mare. Similitudini per solitudini, tu levi l'ancora, io solo affondo qui. Andare al tempo d'impazzire o andare lento, a seconda dentro chi ci sta. Dimentichiamoci, ma rivediamoci, senza coinvolgere rimpianti o gelosie. Yeah. Amore mio, posso chiamarti amore mio per questa volta, per un po'. Non mi cercare, lascio l'anima deserta, esplorandola da solo, come un falco liberato in mezzo al cielo. Oh, oh, oh, oh. Similitudini per solitudini, tu levi l'ancora, io solo affondo qui. E brava sì, se hai preso al volo un sogno, l'ultima evasione coi tuoi abiti in un pugno, e negli occhi il mio futuro, così pieno di mistero, non vorrei l'ultimo bacio come Giuda. No, no, no, no, no. Solo a